ti saluto e se qualche volta ti facessi vedere ne sarei molto felice. Sì, certo. Ah, questi sono per la chiesa. Allora, grazie e arrivederci. Arrivederci. We'll be right back.